7. Una nuova amica. Il giorno dopo, Alexandra non vuole svegliarsi, non vuole alzarsi, non vuole andare a scuola. La mamma dice: «Come stai? Stai male?» «No, sono stanca.» «Dai, alzati e vai a scuola, non puoi fare tante assenze.» Alexandra si alza e va a scuola. Alla prima ora c'è italiano. La professoressa dice i voti dei compiti in classe. Ragazzi, alcuni di voi hanno scritto dei testi molto belli. Eleonora, Giovanna e Daniele, ad esempio. E poi Alexandra! Sì, professoressa? Brava, hai scritto proprio un bel testo! Ci sono tanti errori di ortografia, ma anche tante cose interessanti. Voglio pubblicarlo sul giornalino della scuola. Alexandra è molto orgogliosa. All'uscita Alexandra è un po' più contenta. Oggi è stata una buona giornata. Alexandra, vieni a casa mia a studiare inglese? Le domanda Giovanna. Ah sì, grazie. Devo telefonare a mia mamma. Dai, chiamala. Alexandra è molto contenta e abbraccia Giovanna. Dai, uscite, la campanella è già suonata! Urla la professoressa di inglese. Sentila, urla come un'aquila! Dice Giovanna ad Alexandra. Ma a me sembra una gallina! Dice Alexandra. Le due ragazze ridono. Ragazze, perché ridete? Niente, niente! Dice Alexandra. Parliamo dei compiti di storia! Le due ragazze ridono di nuovo e corrono per le scale.